eccoci qua, siamo per cominciare. Io e lei siamo a stronza, siamo qui a raccontare quello che ci dice il cielo. Perché facciamo questo? Perché da sempre l'essere umano, osservando il cielo, ha imparato a fare tutto. Prima di tutto navigare, coltivare, insomma le cose più importanti sono state fatte grazie all'osservazione del cielo. E siccome ci stanno facendo dimenticare questo tipo di conoscenza, noi abbiamo deciso di portarlo, perché sapere quello che succede nel cielo collettivo ci aiuta a capire come meglio muoverci, perché ci sono dei momenti in cui è bene agire e dei momenti in cui è meglio che no. Ogni tanto ci possiamo anche fermare, difficile fermarci in una società capitalistica, però è bene farlo. Allora, faremo prima la descrizione del cielo collettivo e poi piano piano affronteremo i segni. Per affrontare i segni preparatevi, perché siete voi a scegliere che segno volete. Quindi se fate i timidi e non gridate il vostro segno, farete notte. Questo è chiaro. Poi vabbè, noi aspettavamo effettivamente il tramonto. Guardate che bellissima la luna che ci accompagna, che sta lassù. Abbiamo da poco superato il primo quarto e il primo di agosto avremo la luna piena in acquario. Quando c'è la luna piena siamo sempre in un momento all'apice. Allora, cominciamo dal fatto che 2 settimane fa c'è stata una luna nuova in cancro. Questa luna nuova in cancro ci ha portato tutti quanti verso delle situazioni legate alla casa, quindi la maggior parte delle persone hanno avuto magari problematiche legate alla casa o legate a anche le questioni della mamma, della famiglia, insomma, diciamo una grandissima emotività. Io da allora non mi sono più ripresa, ok? Non so come l'avete vissuta voi, però devo dire che a me mi ha un po' massacrato, quindi sono riuscita anche a scrivere di meno. Quando comunque il cielo te blocca, te blocca. Insomma, attenzione, perché la luna piena ci porterà a questo apice dove avremo un sole in leone. In questo momento il sole è nel segno del leone, quindi siamo nel centro dell'estate, e la luna in acquario. Allora, il leone mette al centro se stessi, l'acquario invece è quell'energia collettiva che è gli altri, quindi ci troveremo, diciamo, in conflitto dalla parte razionale e la parte emotiva, che vorranno due cose diverse. Però la luna piena ci porta sempre a vedere delle cose che non sono chiare, che non erano chiare prima, quindi tutti questi problemi nati con questa luna nuova li vedremo il primo di agosto. La cosa interessante è che il 31 di agosto avremo una seconda luna piena, quindi agosto è un mese molto interessante con 2 lune piene, ma questo ne parleremo poi. Intanto vi rimando a queste informazioni. Allora, abbiamo detto il sole leone, il centro dell'estate, c'è l'abbondanza, è stato raccolto tutto, quindi questi frutti maturi. E oggi è un giorno importante perché Mercurio, che è il pianeta della comunicazione, dopo essere stato nel segno del leone per poco tempo, per fortuna, però ha creato un sacco di disastri, soprattutto al toro, leone, acquario e scorpione, diciamo, hanno avuto problematiche per quanto riguarda la comunicazione. Ce l'abbiamo avuto un po' tutti quanti, perché questo Mercurio, diciamo, era in aspetto conflittuale con Urano, quindi abbiamo visto questo cambiamento del tempo, questo vento spropositato, e adesso per fortuna questa energia si sta sciogliendo. Mercurio entra nel segno della Vergine, entra proprio oggi, questa sera alle 11:30, e questo Mercurio in Vergine sta molto bene, sta a casa sua, e quindi riusciremo a trovare le parole adatte. Certo, per Gemelli, Sagittari e Pesci non è proprio il Mercurio adatto, però insomma altri segni riescono a godere di questa situazione. Allora, considerate che questo Mercurio rimarrà in Vergine fino al 5 di ottobre, un transito lungo. Quando i transiti sono lunghi c'è sempre la fase retrograda. Quando Mercurio è retrogrado bisogna stare fermi, ecco, è uno di quei momenti in cui non bisogna avviare cose nuove, Quindi attenzione, perché dal 23 di agosto al 15 di settembre non dovete aprire nuove attività, non dovete avviare qualcosa di nuovo, ma dovete sistemare quello che avete già avviato. Quando Mercurio è retrogrado, viaggiare può diventare più problematico. Quindi se avete già preso i biglietti, l'importante è andare a osservare se l'aeroporto si hanno cancellato il volo, com'è, insomma, tutta una serie di cose, perché un po' di problemi li può creare. Dopo Mercurio abbiamo Venere. Venere è il pianeta delle relazioni, ci dice quello che ci piace. In questo momento Venere in Leone è in fase retrograda, perché quest'estate è caratterizzata da questa Venere che ha deciso di fermarsi nel Leone. La cosa bella di Venere in Leone è divertiamoci tutti, no? Voglia di fare spettacoli, di andare in giro, di divertirci. Infatti Roma e non solo è esplosa e ci sono tantissime cose da fare. Ora, Venere retrograda però ci fa fare un lavoro su quelle che sono le relazioni, quindi chi sta in coppia sta cercando di capire come va sta relazione, c'è qualche cosa che magari può creare dei problemi, oppure bisogna semplicemente sistemare queste cose. Per chi, diciamo, perché single adesso si possono incontrare delle relazioni, però parliamo di relazioni che al momento non sono quelle durature, parliamo di una Venere retrograda, soprattutto quella persona mi piace, forse non mi piace più, vedi ci passa pure l'ambulanza con la sirena, no? Che ci indica che c'è una problematica, quindi stiamo un po' valutando, però indipendentemente dagli altri questa Venere ci spinge a fare un lavoro su noi stessi, perché se noi per esempio non ci troviamo bene con una persona, ma che non è per forza la coppia, ma anche delle amicizie, le persone con cui abbiamo dei rapporti, questa Venere ci dice che se noi cambiamo le persone, non andiamo a cambiare la nostra modalità di relazionarci con gli altri, attireremo sempre la stessa cosa. Quindi se noi stiamo attirando delle cose che non ci piacciono, non dobbiamo cambiare le persone, dobbiamo andare a lavorare su di noi e cambiare le nostre dinamiche in modo che non seguiamo più ste briciole. La Venere e il Leone vuole la torta a tre piani, ok? Non solo intera, ma proprio a tre piani con i fuochi d'artificio. Vuole essere trattata bene, questo vogliamo dalle relazioni, ma dipende da noi, quindi cominciare a osservare le persone effettivamente per quelle che sono e smettere di proiettare sti sogni d'amore, sti film che se famo, perché poi dopo rimaniamo delusi, no? Allora cominciare a distinguere veramente le persone che abbiamo davanti, è un lavorone, ma ci serve, in modo che andremo verso quello che veramente ci tratta bene, perché questo è quello che noi vogliamo. Allora, dopo questa Venere che sarà per lungo tempo, abbiamo Marte. Marte parla dell'energia fisica, della nostra volontà. In questo momento Marte si trova in Vergine. Marte in Vergine è tutto calcolato. Prima di muoverci stiamo pensando se la cosa da fare è giusta, mi muovo, la faccio, non la faccio. Si ragiona molto. E diciamo, quindi c'è molta strategia. Dopo Marte abbiamo Giove. Giove è il pianeta dell'ottimismo, è della grande fortuna, diciamo è dell'espansione, quindi quando Giove è a favore è tutto bello, ma ci si ingrassa, ok? Quindi attenzione, perché ogni pianeta dice, ah, mi dice bene, però attenzione alla linea, ok? Perché diciamo ci spinge verso questo piacere. Giove ci dice che siamo tutti un pochetto alla ricerca del nostro piacere, ma anche della sicurezza. Una sicurezza che sta un po' mancando da questo anno a sta parte, anche negli ultimi anni. Ok, questo diciamo è dovuto pure dal fatto che siamo davanti a un Saturno, che è il pianeta della struttura, ok, e delle responsabilità, che quest'anno si trova nel segno dei Pesci. Allora considerate che Saturno è la struttura e quindi è tutto materia. I Pesci invece non c'hanno materia, quindi Saturno in Pesci si sta facendo vedere che questo stato e questa struttura va acqua da tutte le parti e che soprattutto se noi continuiamo a basarci sulle vecchie sicurezze non andremo da nessuna parte, perché se stiamo a pensare che la soluzione è la casa di proprietà e il lavoro dipendente, no, non è quello che dobbiamo andare, ok? Perché quello che dobbiamo fare è cercare la sicurezza in noi piuttosto che all'esterno, ok? Perché se noi andiamo a cercare le sicurezze fuori, come te licenziano? Grazie. Vedremo, poi mi appoggerò forse, eh? Mi piace sempre stare in piedi, però dopo un po' comincia a accusare. Allora, quindi dicevamo appunto struttura, pesce, vedi, si abbassa, non lo so se lo farò. Attenzione, perché dobbiamo andare a cercare quelle che sono le sicurezze dentro di noi, ossia a capire quali sono i nostri talenti e basarci su quello. Sappiamo fare tante cose, quindi molto spesso magari rinunciamo ai nostri sogni per un posto fisso che poi ci frustra. Quindi andiamo verso l'arte e la creatività, ok? Questo è un po' quello che... Grazie. Ci dobbiamo reinventare, che sto mondo non ci piace più, poi soprattutto in Italia, ma a Roma diciamo la vediamo in decadenza totale. Quindi dobbiamo un po' fare qualche cosa anche noi. Dopo Saturno abbiamo Urano. Urano è il pianeta del cambiamento e dell'imprevisto. E diciamo che Urano in Toro sta mettendo l'accento su quelli che sono i cambiamenti climatici. Quindi diciamo, noi astrologi sappiamo benissimo che il problema è legato a quello e che quindi dovremmo cambiare, diciamo, il modo di rapportarci alla natura. Oggi mi hanno mandato una cosa che Bill Gates voleva oscurare il sole, eccetera, però vi faccio l'esempio che già un'ora legale è sbagliata, che non stiamo seguendo la natura, perché stiamo sempre cercando per avere più ore di luce, che morimo dal caldo, ve lo dico, perché per me è una sofferenza avere queste tutte le ore di luce. Dovremmo adattarci a quello che è la natura, quindi cambiare delle cose. Questo cambiamento non è legato soltanto al discorso della natura, anche a livello economico. Quindi cambierà il nostro modo di, sia per quanto riguarda l'agricoltura, ok, proprio di procurarci il cibo, e anche a livello economico. Quindi vedremo che ci saranno questi cambiamenti nella società, che ancora non ci siamo ben arrivati, ma piano piano ci si riuscirà. Dopo Urano abbiamo Nettuno. Nettuno è il pianeta dell'immaginazione, è quel pianeta che dell'immateriale, in questo momento da tanti anni si trova in Pesci e ha aperto le porte a tutto questo nuovo mondo grazie, diciamo, a questo Nettuno in Pesci. L'astrologia e altre tematiche hanno trovato riscontro, però a un certo punto abbiamo un po' esagerato, perché a un certo punto pure la legge d'attrazione pensa positivo, no? Però se pensa sempre positivo e poi non vedi il lato negativo, poi dopo rimani sempre deluso. Quindi diciamo che attenzione a non credere a stasini che volano. Va bene credere a determinate cose, però manteniamo i piedi per terra. L'abbiamo visto col Covid, andrà tutto bene, non è andato tutto bene. Ora, per quanto mi riguarda, quando è successa quella cosa era proprio l'universo che ci mandava il messaggio di dire: guarda, io ti fermo, guarda la tua vita e vedi che cosa non va. Quindi se stavi a casa male, evidentemente devi cambiare a casa. Se quel lavoro lì non è... Insomma, avevamo la possibilità di guardare meglio le nostre vite e andare verso il cambiamento. Okay? Questo dipende sempre tutto da noi, come andranno le cose. Questa è la cosa più importante. Non ho nominato Chirone perché solitamente non viene menzionato, ma Chirone è, diciamo, un asteroide che sta tra Saturno e Urano e parla della nostra ferita iniziale, del guaritore. Chirone ha cominciato il suo moto retrogrado, è in Ariete e quindi ci sta facendo lavorare sulla nostra ferita del non saper decidere, ok? Quindi ci metterà davanti a delle situazioni in cui è il caso che siamo noi a decidere quello che vogliamo piuttosto che far scegliere le altre persone. Nel frattempo è successo un altro cambiamento molto molto importante, che sono i nodi lunari, ok? Allora, i nodi praticamente erano prima Toro Scorpione E adesso siamo passati a Ariete e Bilancia. Prima eravamo un po' focalizzati su quello che era l'attaccamento e lasciare andare, quindi la materia e la non materia. Adesso invece abbiamo il nodo nord che punta in Ariete e il nodo sud che si trova in Bilancia. Ci sta chiedendo, questi nodi ci stanno chiedendo di andare verso sempre la nostra volontà, che dobbiamo essere persone assertive, non prevaricatrici, perché con l'Ariete si potrebbe anche diventare un po' troppo prevaricatori, e dobbiamo magari smettere di essere troppo accondiscendenti, perché il nodo sud in Bilancia, se noi continuiamo a essere sempre felici, sorridenti, a non dire quello che ci piace, ci mettono i piedi in testa. Ok, quindi mi raccomando di andare verso la nostra assertività, scegliere quello che vogliamo senza avere paura che gli altri ci rifiutano, perché molto spesso non diciamo quello che vogliamo e siamo compiacenti, ok? Basta con questa compiacenza che non ci porta da nessuna parte. Allora, in questi giorni abbiamo Mercurio che si congiunge a Venere, quindi ci saranno dei momenti di chiacchiera, saranno molto interessanti, e poi nei prossimi giorni ci sarà anche un Mercurio che poi si metterà in opposizione a Saturno. Quindi questi giorni si chiacchiera e nei prossimi giorni, a un certo punto, da questa chiacchiera e benevolenza troveremo dei blocchi. Non bisogna, quando troviamo dei blocchi, per forza batterli, evidentemente non è il momento adatto, passano due giorni e poi la situazione diventa scorrevole. Ho finito tutta questa dinamica del cielo, che è importantissimo. In realtà, che segno, con che segno vogliamo cominciare? Leone. Con Leone, yeah. Leone, mo è partita subito e poi passeremo col Cancro. Come? Acquario. Lo dovete urlare dopo, ma chi se lo ricorda, no? Aspettate che non ho acceso la luna. Ecco qua. Facciamo una luna rossa per il Leone, no? Il segno di fuoco, è il loro compleanno in questo momento, quindi è giusto che mi protegga il Leone. Gli diamo il giusto riscontro. Guarda, ha detto così in modo che si ma dice... Ma non è il mio segno, è il segno di mia madre. È il segno di tua madre. Perché ti ho seguito, quindi ho fatto un viaggio mentale. Esatto, quindi come abbattere la mamma? No, scherzo. No, vabbè. No, e che devi fare? Siamo ancora arrivati. No, però insomma, diciamo che se la mamma è Leone, è una mamma abbastanza importante, ecco. Ora, diciamo che il discorso mamma è la prima fonte di nutrimento, questo è il problema più grande, quindi abbiamo il Sacro Graal, è nostro, e quindi insomma ci capitano queste cose. Sole, il Leone, è il periodo di questo segno che è governato dal Sole. Allora, il messaggio per chi nasce del Leone in questa vita è mettersi al centro della propria vita, non al centro della vita degli altri, perché lì c'è la sottile linea dell'ego che divide tutto. Ora, nella prima parte, il Leone, quando è giovane, cerca riconoscimento negli altri, quindi ci stanno gli amici che vi mandano i video, no? Vi mandano le foto, si fanno i selfie, proprio perché hanno bisogno di riconoscimento da parte degli altri. Invece, nel momento in cui si è accentrati su se stessi, questo problema non sussiste. Il Leone ha una specialità, non tutte specialità, quindi sono persone che, se riconoscono questa specialità, possono eccellere in alcune cose. È molto difficile, diciamo, capire la differenza, perché tra essere centrati su se stessi e l'ego preponderante, la situazione è un pochetto difficile. Ora, per il Leone, dove state Leone? Ci siete? Per il Leone è un momento molto importante, perché c'è questa Venere che ha deciso di accendere la vostra vita e di mettere i riflettori sulle relazioni, tutte le relazioni, ok? Non parliamo solo delle relazioni di coppia. Ora, Leone, attenzione, perché avrete l'imbarazzo della scelta. Quando Venere è in congiunzione al Sole, lo sarà per lungo tempo, si diventa più belli, quindi c'è il filtro del telefonino, no? Che diventi più bello. Allora, quando Venere è in congiunzione, invece, si diventa più splendidi. Ci sarà la possibilità di attrarre tante persone, però questa Venere retrograda dice: che persone state attraendo? Che cosa volete da una relazione? Quindi attenzione, perché chi sta in coppia magari può essere tentato da altre situazioni. E io dico, prima di abbandonare magari una situazione per un'altra, cercate di guardare chi ve si presenta, perché potreste prendere pure delle sole. Quindi prima di lasciare il certo per l'incerto, io vi invito a vivere questa Venere per un po' di tempo, e verso settembre, ottobre, anzi facciamo ottobre, riusciremo a capire meglio in che situazione andare. Quindi è un'estate in cui siete al centro di tutta l'estate, che sarà veramente molto interessante. Ora, in questo momento c'era anche Mercurio, quindi si sono mosse tante cose anche a livello lavorativo, questo Mercurio vi ha fatto comunicare tantissimo negli ultimi giorni, però questo Mercurio era un po' ostile, quindi dovreste aver litigato con un po' di persone proprio perché volevate far valere la vostra volontà. Mi raccomando di non chiudersi, diciamo, nei propri pensieri, ma nemmeno di andare troppo verso gli altri. Cercare di capire, quando troviamo qualcuno che ci ostacola, che forse magari il nostro pensiero potrebbe cambiare, ok? Perché quando uno ci va contro non la dobbiamo prendere sul personale, ma magari la nostra idea può modificarsi e anche andare in modo migliore. Ora, questo Mercurio vi ha lasciato e si mette in quella che viene definita la seconda casa, quindi non fa un aspetto diretto, ma mette, diciamo, l'accento sul quanto ho guadagnato, quanti soldi ho, mi compro una cosa. Diciamo che è un Mercurio che vi chiede di andare a valorizzare tutta una serie di cose, quindi è facile che potreste acquistare anche delle cose. Avete guadagnato, avete avuto successo, ma state pensando a come spende sti soldi. Attenzione, perché può darsi pure che ci sono delle spese non preventivate, ok? Quindi ci potrebbe anche essere questa cosa. Però in questo momento il Leone sta proprio concentrato sulle cose che ha e sta attento pure che qualcuno non gli porta via. C'è un po' d'attaccamento, ci potrebbe essere pure un po' di gelosia per chi ha i rapporti. Quindi attenzione, anche se l'estate è veramente interessante. Diciamo che sul discorso economico c'è questo Giove in quadratura che vi dice attenzione a come spendete i soldi, perché se volete fare delle cose non riuscite a vedere sempre tutto quanto alla realtà, ma è più facile vedere solo il lato positivo. Giove in quadratura dice non fate il passo più lungo della gamba, quindi attenzione a non esagerare, non è proprio il momento dei grandissimi acquisti, anche se ci state pensando. Insomma, un'estate rovente sotto tanti punti di vista. Se ancora non avete incontrato nessuno, uscite di più e sicuramente, insomma, avrete molto da divertirvi. Però mi raccomando, perché ci sono queste attrazioni che sono un po' particolari, perché questa Venere comunque si congiunge più volte a Lilith, quindi uscirà anche il nostro lato ombra, nel senso che comunque con questa Venere il Leone abbiamo tutti un po' una voglia di rivalsa, ok? Proprio nel senso che magari andiamo verso delle persone perché vogliamo magari farla pagare a qualcun altro, ok? Oppure siccome non mi sento troppo bella, allora comunque devo rimorchiarla da chiunque, perché devo sentire che valgo. Attenzione, farà uscire i nostri lati ombra. Importante è non dare subito il cuore, questa è la cosa più importante. Diamolo quando è il momento giusto, perché poi uno ci rimane un po' fregato. Quindi tanti auguri per quest'estate veramente di fuoco. Allora io faccio il tempo, grazie. Acquario! Cancro prima che mi ammazzano. No, prima c'era il cancro, che c'è un tavolo di cancro. Il cancro ci rimane male dopo. Verde? No, verde no. Celeste, va bene, celeste. Segno d'acqua. Allora, il cancro è un segno governato dalla luna. Essendo governato dalla luna, ogni due ore e mezza cambia umore. Quindi vi svegliate felici, dopo due ore e mezza non si sa perché vi viene la malinconia. È quel segno che se ci sta insieme gli devi dire ogni due ore e mezza che gli vuoi bene. Tu gliel'hai detto prima? Poi dopo fanno una cosa e tu glielo devi ridire, hanno bisogno di mille conferme. Ti guardano con stocchi languidi. No, c'avete presente il ciucchino a Shrek che sta fuori lì a cosa, no? Che con stocchi. È un mondo di emozioni, io non lo so come fate a vivere, però avete scelto di incarnarvi in, diciamo, in questo segno proprio per imparare a governare le emozioni. Quindi la prima parte di vita è essere travolti dalle emozioni degli altri, tutto vi attraversa. Invece quello che dovete fare proprio in questa vita è imparare a vivervi le emozioni senza farvi travolgere dagli altri, ok? Il cancro è quel segno che ha bisogno di protezione e di nutrimento, però attenzione che questa voglia di protezione a volte va collate delle persone che non è che fanno proprio per voi, perché state a cercare la sicurezza, no? Però io direi che no, dovete guardare meglio chi avete davanti, superare la paura della solitudine. Il cancro praticamente, se tu ci stai insieme tutta la vita. Tutta la vita, nel senso che pure se te lasci, te continuano a scrivere, te c'hanno rubrica. No, non te ce lasci mai, perché per loro c'è un grandissimo legame. Quindi il cancro rimane appiccicato alla famiglia che non riesce a lasciare mai, poi il discorso mamma è la cosa più coinvolgente, amore e odio, però è proprio il discorso di cercare di uscire fuori dalle dipendenze, ok? Perché ci potrebbe essere questa cosa, oddio, se dopo rimango da solo. Allora, devo dire che per il cancro, allora adesso questa Venere non sta toccando il vostro segno, quindi diciamo che è il momento della Venere che sta a pensare sempre a livello economico come gestire le cose, ma soprattutto sta cercando di dirvi di dare valore alle giuste persone, ok? Questo, quindi sceglierete delle persone che fanno per voi. È un periodo molto bello però della vostra vita, perché finalmente è un anno in cui c'è questo Saturno che vi dà stabilità, ok? Quindi state andando in un percorso stabile sia a livello lavorativo che a livello di relazione, si possono trovare quelle cose che durano nel tempo, una cosa che voi ci tenete tantissimo. Anche Giove vi sta aiutando. La bellissima notizia è che avete un Marte molto energico, quindi c'è la possibilità di andare a scalare montagne, considerando che il cancro le montagne non le vuole scalare, a meno che non ci arriva con ski lift. Allora, mo tutte bisogna essere comodi, allora se lo portate col divano da qualche parte va bene, se pensate che però se mette lo zaino lì arrampicasse avete sbagliato segno, ok? Ma ci sono pure, che ne so, dei cancro che ci possono avere ascendente sagittario, lì cambia tutto, però parliamo dei segno in generale. Grandissima energia fisica e anche sessuale, questo non è affatto male, gli ormoni vanno dalla parte giusta. Questo Mercurio si sta mettendo molto bene, quindi attenzione, perché da oggi fino, diciamo, a ottobre avete la possibilità che vi arrivano tante offerte lavorative, ok? Vi fanno le proposte che sono molto interessanti. Attenzione, le proposte saranno tante, poi quando Mercurio è retrogrado dovete capire. Quindi si avvieranno tante cose, a un certo punto si bloccheranno perché vanno risistemate, non perché non le dovete fare, ok? Però attenzione, perché diciamo è il momento della socialità e della chiacchiera, un'estate in cui sarete in forma, questa è la cosa bella, molto in forma e molto sereni. Insomma, diciamo, non ci sono pianeti contrari che vi stanno dando fastidio, dovete aspettare ottobre prima che vi vengano a rompere le scatole. Godetevi questo momento perché state messi veramente bene, sarà piacevole perché sarete circondati di tante persone, quindi la solitudine non la sentirete. Adesso che segno facciamo? Ariete, ariete. Aspetta, dobbiamo seguire quelli laggiù. Facciamo, facciamo il toro. Ma se si sono messi laggiù è perché non sono interessati. No, no, lui sta qui dall'inizio. È arrivato prima di me il toro. Ecco qua. Grazie. È il mio ascendente. È il tuo ascendente. Ci stanno tori? Sì. Ma poi vergine però. Va bene, dopo si può fare la vergine, vi dovete preparare, eh? Allora cominciamo con questo toro, perché in realtà il toro ce lo sa che c'ha sta Venere che sta in quadratura. La Venere, diciamo, per il toro è il suo pianeta guida, quindi il toro praticamente quello che ha bisogno nella vita è sicuramente la sicurezza e di avere delle cose stabili. Allora il toro sta qui per imparare a godere di quello che ha, che è la cosa più importante. Però molto spesso il toro appunto è quel segno che magari sceglie di andare a fare lavoro fisso quando invece sono dei grandi artisti, ok? Quindi potete pure mollare questo tipo di sicurezze. Questa Venere, no, diciamo quando la Venere è contraria non te piaci, non te va bene. Allora in questo momento questa Venere quadrata sta dicendo che magari ci possono essere dei problemi nella relazione. Ora, se i problemi nella relazione possono essere la persona è lontana, non ci possiamo vedere, ok? Oppure voglio rimorchiare, ma quello me se vuole solo il sesso. Ora, solitamente il toro se vuole fidanzare, questo lo dovete sapere, perché al toro gli piacciono le cose che durano tanto tempo. Toro è quel segno che se tu gli fai un torto, sole canardito. Ok, se lo ricordano tutta la vita e pure quella dopo. Del tipo, c'è presente il testimone di Giova che ve bussa a casa, è il toro che nella vita precedente gli avete fatto un torto. Quindi attenzione a come vi ponete con questo segno. Ora c'è un attimino da vedere come vanno le relazioni. Abbiamo detto che chi è in relazione ci sono queste problematiche qua, e chi è single in questo momento non riesce a trovare la persona adatta. Soprattutto al toro gli piacerebbe fare magari un tipo di vacanza sdraiato sul lettino con la palma, con qualcuno che sventola, e invece si ritrovano a Roma oppure vanno a Fregene e gli chiudono lo stabilimento. Esatto, quindi potrebbero, insomma, ci sono quelle cose, mi voglio divertire ma non riesco troppo a divertirmi. Ora pure il sole sta rompendo le scatole al toro, che dice, cioè in questo momento dell'estate il toro in realtà c'ha più la tendenza a chiudersi piuttosto che andare nei posti affollati. C'è questo sole che rompe le scatole, però c'è questo Marte che dà grandissime energie, quindi c'è una bella carica fisica. Anche se so pigri, in realtà questo toro ha deciso che si vuole muovere, e c'è questo Mercurio che finalmente, dopo avergli fracassato l'anima in questi giorni, quindi il toro dovrebbe aver discusso con tutti, proprio perché poi il toro è un segno fisso, quindi è decoccio, la pensa in un modo, non gliela fai cambiare l'idea di quello che pensa, e quindi no, aveva delle idee che si scrociavano con quelle degli altri. Ora questo Mercurio si mette finalmente in posizione positiva fino ad ottobre, quindi c'è la possibilità di andare a chiarire certe dinamiche con le persone, aprire il proprio punto di vista e, diciamo, parlare meglio con le altre persone. È molto buono anche per poter viaggiare questo Mercurio, tranne quando sarà retrogrado, ma Mercurio è retrogrado per tutti, non c'è una distinzione di niente. Mercurio retrogrado, attenzione, per il resto invece la situazione è molto promettente. Attenzione, perché vi fanno delle proposte lavorative, ok? Quindi diciamo che è possibile che comunque vi faranno, insomma, ci sarà la possibilità di lavorare, tanto dura fino a ottobre. Diciamo che la situazione però è promettente sotto questo punto di vista, perché le situazioni scorreranno meglio dopo che ci sono stati questi grandissimi intoppi in questo periodo, con questi cambiamenti di programma che fanno un pazzir toro. Finalmente le cose andranno meglio, quindi c'è un attimino di rilassamento, proprio perché, diciamo, anche se c'è questo Giove che sta ampliando la visuale e sta dando grande fortuna a questo segno, che quest'anno è protetto dai pianeti lenti, diciamo che questo Mercurio ha rotto un pochino le scatole, ma adesso la situazione diventa più promettente, considerando che Venere però starà lì a mettere il puntino sulle i per quanto riguarda le relazioni. È un toro che comunque tenderà a rifugiarsi un po' a casa, se magari rimorchia si chiude a casa bene, ecco, questo volevo dire, esatto, che potrebbe essere buon motivo per stare a casa. Dai amore, siamo a casa. E diciamo che questo Marte vi aiuterà sotto questo punto di vista, quindi diciamo che comunque avete delle protezioni, considerando che state in un momento di stabilità. Soltanto i toro nati i primi giorni del segno, proprio il primo giorno, il secondo giorno, sono quelli che poi avranno a che fare con Plutone, di cui non abbiamo parlato. Ci sarà Plutone che si sta spostando dal Capricorno all'Acquario, e quindi diciamo che le persone Leone, Acquario, Toro, Leone, Acquario e Scorpione avranno a che fare con questo Plutone, ma soltanto le persone nate i primi giorni, perché Plutone è lentissimo. Cosa intendi per i primi giorni? Per i primi giorni, tu sei i primi giorni del segno, come entra il sole nel segno, dipende, 21-22, ok? Cioè proprio là, ok? Magari l'Acquario è il 20, mi sembra, comunque proprio primo grado, secondo grado, e si comincia a sentire Plutone che vi fa lavorare sul potere personale. Lì è un aspetto un po' particolare, però è meglio che non ve lo dico, perché diciamo comincerà un grande processo di trasformazione. Ora, dopo il Toro, Ariete! Scorpione! Scorpione! E va bene? È il mio segno. Va bene, Scorpione? Va bene, è il mio segno. Aspetta, però Ariete, aspetta, Ariete, che lei... Ariete. Che stai a di? Ariete, non sta dicendo che lei... Bilancia! Oddio, no, ti prego. No, però io te lo dico, lei sta lì dietro, che si sta scalmando. Mi stai a far sudare, guarda. Allora, bilancia. Faccio bilancia, perché si sta buttando... Ma no, ma è davvero, voi non la vedete, però se sta là... Così sta, però non si sente, c'ha sta voce perché non la porta, perché è da bilancia. Che può essere volgare a bilancia? No, per carità. Allora poi io fra un po' chiederò un altro drink. Se è possibile. Lo faccio l'Ariete, poi non mi chiede più niente. Dopo la bilancia faccio l'Ariete. Ma io la Vergine. Sono dell'Ariete. Sei della Vergine? È bellissimo, facciamo la bilancia prima. Vergine, aspetta. Una vodka tonic, grazie. Vodka tonic. Leggero però, è leggero, non pesante, leggero. No, perché c'ho bisogno di bere, però poi li fanno pesanti e il giorno dopo è macello. Perché mi aiuta a sciogliermi. Comunque sei emozionata. Abbiamo detto che parliamo della bilancia, prima che se butta dall'albero, facciamo la bilancia. Allora, la bilancia è un segno di aria, è un segno d'aria, come diciamo che come il toro è governato da Venere, quindi ci tiene tanto alle relazioni la bilancia, anche perché è un segno che governa la settima casa, che è la casa del matrimonio. Quindi quando abbiamo la bilancia, solitamente io mi voglio legare a qualcuno, è proprio il segno che tende a sposarsi, questo è quello che gli piacerebbe. E la cosa più importante per questo segno in realtà è proprio relazionarsi alle altre persone. Attenzione pure bilancia, perché stai bene anche da sola. Questo è il modo che riuscirai a attrarre le persone più giuste per te. Allora, diciamo che la dinamica bilancia è sempre questa condiscendenza di essere sorridenti, gentili, pure quando te vanno cavallo occhi, capito? Quando stanno lì, te vanno di una cosa, però dopo sembra brutto, capito? Che ti dico, no, questa cosa non mi piace, perché è un segno che deve, nella vita, deve scegliere, è quel segno che a livello di simbologia stagionale è la selezione del seme, deve scegliere qual è il seme migliore, quindi scarta quella che è la mela marcia. Quello che dico sempre da bilancia è che appunto essendo figlia di Venere non gli piace sporcarsi le mani, no? Nascono con i guanti, loro stanno lì che rendono tutto bello, però le pulizie no. Allora quando ti invitano a cena a casa è una cosa fantastica che hanno la tovaglia di merletto, tutta, allora hanno il servizio dei piatti uguali, i bicchieri di cristallo, se rompe un bicchiere buttano tutto il servizio, perché non possono apparecchiare una tavola con piatto diverso, si sentono male, capito? Allora ogni tanto si può pure fare, io vi invito a mischiare sti piatti, io per esempio non ho mai avuto piatti tutti uguali, però so da Vergine, quindi mi vado a prendere quello che scarta la bilancia, no? Perché a Vergine non vuole mai buttare niente. Allora, bilancia, abbiamo detto che essere troppo accondiscendenti non funziona, perché sennò poi rimanete frustrati e non scegliete mai quello che vi piace a voi. Invece questa vita dice devi saper scegliere te, sennò scelgono gli altri, quindi non devi andare verso, vabbè a sta persona gli piaccio allora va bene, ti deve piacere a te la persona, ok? Quindi sennò te vai a raccattare quello che non va bene. E ora le tasse una svegliata. Cosa sta succedendo alla bilancia? Allora, i pianeti in leone alla bilancia gli piacciono, anche perché il leone alla bilancia sono tutti sofisticati, sono lussuosi, eppure una bella coppia, eh? Cioè state pure bene insieme. Allora diciamo che per la bilancia me lo farai tu questo Ariete. Allora Ari, eccola. Ancora stiamo che previsioni. Allora da bilancia, il sole e Venere in undicesima casa, in aspetto di sestile, il sestile è l'aspetto gentile come la bilancia, ok? Quando presa bene, perché abbiamo detto che la bilancia presa male è un po' isterica, questo lo dovremmo dire, capito? Da tutta questa naturalezza a Ariete. Grazie Ariete. Tieni. Ariete. Se no mi si rovina il tavolo. Guarda come si raccomanda, ma lì c'ho la Vergine. La Vergine aspetta di sé. Allora, Ariete, Vergine, guarda, io so da. No, aspettiamo, adesso siamo assertivi, manco per niente. Allora, bilancia! Abbiamo Venere favorevole, abbiamo il sole favorevole. Uscire, frequentare le persone, puoi conoscere le persone adatte. Un'estate che ti circonderà di tantissime persone, una cosa a cui tenete moltissimo, quindi è un'estate altamente interessante. Attenzione, perché in questo momento c'è un Marte e un Mercurio che sono in dodicesima casa. Questo vuol dire che da una parte Marte in dodicesima dice forse c'è qualche nemico nascosto, no? Te sei un po' guardinga. Oppure ci sono poche energie che ti stanno attraversando a livello fisico, ok? Ora, per quanto invece riguarda Mercurio, Mercurio ti invita a riflettere, non è il momento di cominciare nuove cose, già ne sono successe tante, ti sono arrivate tante proposte, e allora adesso è il tempo di riflettere sulle cose senza dover spingere. E da una parte, quindi diciamo che rifletto su queste proposte, valuto delle cose, e poi a ottobre, quando ci sarà anche il periodo del compleanno, questo Mercurio sarà molto favorevole. Prima di dire di sì a delle cose potete prendervi una pausa, questo non è niente male. Diciamo che il cielo dice può pure smettere di lavorare un po', penso che per voi sia una grande gioia, ok? e invece darvi proprio alle uscite con le amicizie, e da lì che avete la massima soddisfazione. Anche voi state abbastanza piazzati bene quest'anno, perché i pianeti lenti non vi stanno diciamo mettendo i bastoni fra le ruote e vi lasciano liberi di agire, quindi è un'estate interessante. Quindi facciamo l'ariete, facciamo l'ariete, poi facciamo la pesce. Scorpione! No, basta, mo facciamo l'ariete, poi facciamo la vergine. Ma che segno sei? Scorpione. Qui c'è una tavolata dei scorpioni, bravo. Pesci! Dai, facciamo prima l'ariete, poi facciamo la vergine, va bene? Va bene? Tu che sei? Pesci! Dai, facciamo ariete, vergine, pesci. Dai, facciamo ariete, perché acqua, acqua. Ah, ma l'acquario c'è. Che stronza. Allora facciamo l'ariete e poi facciamo la vergine. La vergine. Allora, però scusate, è bellissima, perché lei che è da vergine, poi si assomigliamo pure. La cosa che a me fa ride è che fa le stesse movenze mie. Allora, la manina così, oppure così, a me mi fanno male, io so così, oppure ma proprio che siamo sofisticati. Appunto, per quello dopo, con calma. Dopo l'ariete, l'ariete la famo svertina. Ariete, dove state? Allora, rimani, aspetta, voglio essere consapevole. No, dai, aspetta dopo la consapevolezza, prima di andare a casa. Comunque fanno carichi, eh. L'ho detto leggero pure, invece sono buoni, eh. Comunque ci stanno pure un sacco di pesci, quindi... E scorpioni! E scorpioni non ci sono. Scorpioni! Scorpioni! Ariete! Dove state? Ariete, avevo detto qua. Tanti. Allora, l'ariete! Allora, l'ariete è il segno governato da Marte, quindi è il segno che comincia tutte le cose. Le comincia e non le finisce, però. Quindi... Dai, apriamo, facciamo sta cosa, poi se stufamo, non c'è più niente da fare, ma dovevo cominciare a fare un'altra cosa. È quel segno che lo riconosci alla pasta, perché sta litigando con qualcuno, è il paladino della giustizia, c'è sempre qualcosa da difendere, no, affari suoi, però sta cosa non è giusta, allora stanno lì, ma perché loro hanno bisogno di litigare. Quindi quando sono nervosi, innanzitutto non gli dovete dire mai stai calmo all'ariete, perché se tu gli dici stai calmo, l'ariete ti strozza, non lo capisci. Allora tu quando incontri l'ariete arrabbiato, tanto si riconosce da un miliardo, no, da lontano, c'è sta fascia imbruttita, no? Allora quando vi si avvicina con sta fascia imbruttita, la prima cosa che devi dire, c'ha ragione. Dopodiché la situazione cambia, allora potete stare rilassati, però rilassate, sta seduta l'ariete, no, ok, io voti al cancro, alla bilancia, ma all'ariete stai sbagliando. Allora, diciamo che l'ariete è protagonista, già viene da un anno veramente interessante, ti serve una sedia, qui c'è la sedia, rimani in piedi, va bene, come ti pare, fai come me, poi dopo un po'... Allora, l'ariete sta messo benissimo, perché c'ha il sole e il leone, sta Venere e il leone che accende di fuoco. Allora, se ci sono arieti single, se rimane poco single. Oddio, l'ariete prima che si fidanza, se vuole fidanzare l'ariete, no, vuole cominciare storie, questo si capisce. Poi, se, allora, diciamo che... Se volete una cosa dura dura con l'ariete, va, dovete tirare. Perché se siete subito disponibili, gli avete tolto la gioia del divertimento da conquista, ok? Quindi bisogna un po' tirarsela a zerbino. Con l'ariete non funziona. Un'estate di fuoco, un'estate molto soddisfacente, soltanto che a un certo punto questo Mercurio e Marte mettono l'accento un pochetto uno sulla salute. Quindi attenzione, perché ci potrebbe essere un po' di stanchezza, soprattutto per quanto c'è tutta sta voglia di divertirsi e fare l'amore, sto Mercurio mette l'accento sul discorso che ci saranno proposte lavorative. Quindi andate in vacanza, ma vi chiameranno che guarda, scusa, mi serve questa cosa, insomma, arrivi. Una bella estate, molto promettente, le soddisfazioni sono state tante, avete raggiunto dei grandi risultati, siete cresciuti di livello e quindi vi tocca lavorare, nonostante potete rimarchiare. Si lavora, però attenzione perché io metterei l'accento un po' sul discorso salute, nel senso che non bisogna strapazzarsi troppo perché sennò può venire la febbre. Quindi attenzione, perché è bello ma bisogna contenersi, perché pure l'Ariete vuole fare sempre tante cose e a un certo punto sarà un pochino affaticato. Quindi dopo l'Ariete facciamo la Vergine. T'ho fregato, allora, però ci stanno prima i pesci e poi facciamo i gemelli. Lo scorpione è l'ultimo perché dedicheremo una pagina per lo scorpione, anche l'acquario ha fatto. Ok, mi piace la pagina. Allora, Vergine, io lei, quanti siamo del segno della Vergine? Perché pochissimi, vedi? Di verginità abbiamo due bambini e poi pochissimi. Allora, è una famiglia numerosa. Allora, Vergine. Vergine è quel segno governato da Mercurio, è quel segno che diciamo sostanzialmente è un po', lo devo dire, la dirò sta parolaccia, è il segno un po' stronzo dello zodiaco. Ma perché? Perché questa cosa? No, io pure so da Vergine. Allora, però la cosa è, innanzitutto, la Vergine è un segno doppio, una cosa che la bilancia non è. I segni doppi sono Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. Perché segni doppi? Perché chiudiamo una stagione e ne abbiamo un'altra. La caratteristica dei segni doppi è che all'apparenza sembri in un modo, quindi gli altri vedono la facciata austera della Vergine, no? Quindi noi sembriamo freddi e glaciali a distacco con sta manina così, capito? Che uno dice stammi un po' lontano. In realtà la Vergine, nel momento in cui tu superi quella fase in cui stammi lontano e riesci ad avvicinarti alla Vergine, la Vergine invece si prostra anche troppo. Quindi diciamo che la Vergine deve smettere di essere proprio disponibile nei confronti degli altri. Allora diciamo che i pianeti ci stanno aiutando in questa fase. Perché? Perché diciamo che dal 2012-2013 c'è stato questo Nettuno in opposizione che diciamo ha fatto che la Vergine ha aperto le porte a tantissime persone, sognando magari un mondo di un certo tipo, prendendo delle sveglie di grande portata. Ok, quindi delle grandissime illusioni e delle grandissime delusioni in questi anni, proprio perché diciamo non c'era nessun filtro nei confronti degli altri. La Vergine oltre ad essere un segno doppio è mobile, non conosce, non mette i confini fra sé e gli altri. Fortunatamente adesso abbiamo questo Saturno in opposizione. Saturno in opposizione per la Vergine è una mano santa, perché vuol dire mettiamo un freno, diciamo, a tutte le persone, cerchiamo di capire chi è effettivamente una persona valida e chi no. Quindi diciamo si chiudono un pochino le porte. Questo Saturno in opposizione ci porta all'apice del successo, come pure al fatto che magari alcune strade sono da cambiare, ok? Diciamo che c'è una valutazione su quello che vale e quello che non vale, considerando che magari la Vergine si è un po' stufata di alcune dinamiche. Abbiamo Marte in congiunzione, quindi la Vergine in questo momento è assertiva. C'è anche Mercurio che da oggi è il pianeta guida e si mette positivo. Attenzione, perché se voi andate dalla Vergine e gli rompete troppo le scatole, ecco, non saremo così gentili come al solito. Hai visto come hai risposto adesso a Modino? Ecco, magari qualche mese fa non era così, adesso proprio è ma chi ti sei fila, me lasci verde. Ecco, quindi attenzione perché c'è questa grandissima energia, quando abbiamo questa grandissima energia risponderemo un po' in modo stronzo, ok? Però ogni tanto serve. Ora, questa Venere è alle spalle, quindi per trovare il grande amore dobbiamo aspettare ottobre. Nel frattempo possono uscire delle relazioni, ma sono delle relazioni che non sono proprio alla luce del sole, capito? Sono più amanti, quindi dici lascia aperte, se per te va bene, ecco. Allora, sappi che ci possono essere questi intrallazzi che insomma cioè per capire se la relazione è valida, quello a ottobre. Nel frattempo, questo Marte è difficile, diciamo che gli ormoni stanno belli svegli, quindi esatto, la comunicazione è bella, quindi diciamo che è un'estate molto interessante dove saremo più padroni di noi stesse, questa è la cosa bella, quindi diciamo che attenzione perché ci possono arrivare delle grandi proposte sia a livello lavorativo, io infatti non riesco a smettere di lavorare, ok, perché poi tu dici va bene ho finito, invece niente, è arrivato Mercurio e quindi mi scrivono. Mercurio ci aiuterà a viaggiare, ci aiuterà a comunicare meglio con le persone, quindi invece che mandarle a quel paese riusciremo con le parole adatte a dire non rompe le scatole, no guarda scusa non voglio, ecco questo diciamo troveremo forse le parole adatte, cosa che fino a qualche giorno fa era un po' difficile. Certo, se ci vanno mette grande i piedi, ciao, i piedi in testa, ecco diciamo che saranno problemi loro, ecco. Ora il sole in questo momento anche se è messo nella dodicesima casa, quindi la Vergine è assertiva, però non gli va di andare troppo in vacanza e farsi vedere in giro, saremo noi a scegliere quando è il momento giusto. Vogliamo vivere un po' nascoste e studiarci la situazione. Il momento migliore sarà da agosto in poi, quando arriverà il sole, però diciamo che avere questi Mercurio e Marte alleati ci aiutano tanto a farci valere e a vivere un'estate in cui comunque saremo protagonisti, anche se su certe cose ci manterremo un po' nascoste per cavoli nostri. E quindi abbiamo detto che dopo la Vergine facevamo i pesci. Pesci, perché. E poi gemelli. Scorpione! E poi gemelli. No! Pesci! Oh, comunque visto che fate i video, pubblicate le storie così le persone che non c'erano le sentono, ok? Quello va bene, taggate, fate, andiamo anche alle altre persone. Allora, pesci poi facciamo acquario in realtà. No, scorpione! Scorpione lo facciamo dopo perché devo perdere più tempo. Gemelli lo faremo. Capricorno quando hai finito di mangiare. Hai visto che modo carino e gentile l'ho detto? Non sei solo Capricorno, ci avrai qualcosa da bilancia, sei troppo gentile. Non sembri tale. Capricorno sei nato all'alba? Ah, vabbè, allora è vero. No, perché tante persone mi dicono, io quelli che non sanno niente d'astrologia, mi dicono, no, soprattutto gli uomini, no? Ah, sono acquario, ascendente acquario, sono all'alba, no, infatti mi sta più a per culo, però. Vabbè, allora pesci, il segno opposto alla Vergine. Allora, la Vergine praticamente c'ha sta cosa di essere precisa. È precisa perché la Vergine dentro c'ha un caos incredibile, venite nelle nostre stanze e vi renderete conto che l'ordine non lo dobbiamo proiettare perché viviamo in un caos totale. Questo sto parlando della Vergine perché adesso arriva i pesci che è l'opposto, quindi i pesci invece dentro di loro sono rigorosi, hanno tutta una serie di regole e allora fuori devono proiettare quello che è il caos, ok? Perché proprio il segno passa all'altro, diciamo sono anche i lati ombra, quindi i pesci sono governati da Nettuno, i pesci non li possiamo lasciare a lavorare in un ufficio da sole, a meno che non è uno studio d'arte, ok? Diciamo che il pesce alle poste magari è quello che manda i bonifici a casa alle persone, ok? È quello che cercherà di andare a fare il colpo del secolo. Diciamo ai pesci non gli interessa, diciamo, quel tranne alcuni, a meno che non ci sta il mondo dell'arte in mezzo. Però i pesci, che ne so, sono quelli che vorrebbero fare il disco del secolo e diventarci ricchi. Allora loro vanno a diventare ricchi in una botta sola. Ah, facciamo il colpo alle poste. Ok? Esatto. Facciamo il disco. Un modo di vivere senza lavorare. Esatto, un modo di vivere senza lavorare. Ora, sono i più artisti dello zodiaco e diciamo quello di cui hanno bisogno Allora, diciamo che in questa vita i pesci, essendo governati da Nettuno, se la vivono in due modi: o sono totalmente integrato in questa società, e quindi il pesce integrato è in connessione con l'universo, canalizza le energie, capisce le cose prima, le sente quando accadono, ok? Oppure ci sono i pesci che non si sentono per niente in connessione con l'universo. Mi sento emarginato, mi sento staccato da questa società. In realtà, diciamo, la cosa migliore è essere in connessione, ma non è sempre possibile essere totalmente connessi, soprattutto dipende molto dai pianeti. Diciamo che è un anno totalmente importante, perché uno, vabbè, avete Nettuno nel segno da un sacco di tempo, però il discorso è che c'è questo Saturno che si emette in congiunzione al Sole dei pesci. Allora, i pesci che non vogliono, che praticamente non vogliono mettere le radici da nessuna parte, perché si spaventano, come tu cerchi di fermare un pesce, il pesce se ne va, ok? Perché non ha paura di fesguiscia, ok? Però con Saturno in congiunzione, i pesci hanno deciso di fermarsi da qualche parte. Hanno trovato un lavoro che dà soddisfazione. E quindi, che bello, sto progetto lo voglio portare avanti. Oppure hanno trovato una persona con cui stare. Che bello, voglio stare con te. Magari ci sono pure dei pesci che si vanno a sposare in questo momento, poi magari i pianeti cambiano, però c'è questa cosa del mi piace stare in questa relazione. 3 anni dura il transito, poi le cose possono sempre cambiare, non vi vorrei spaventare, pesci, eh. Comunque, diciamo, al momento della stabilità, di andare a mettere le radici da qualche parte, e diciamo è un anno interessante. Ora devo dire che purtroppo questo Marte è in opposizione, un Marte in opposizione toglie le energie, quindi diciamo che in questo momento attenzione pesci a non andare, diciamo, a scalare queste famose montagne, perché le energie sono basse. Quindi se fate troppe cose, poi dopo siete stanchi, e se siete troppo stanchi poi vi arrabbiate e siete un po' frustrati. Attenzione a non esagerare a fare le cose, tanto di solito voi non è che vi piace fare troppe cose, però ultimamente vi siete dati un pochino più da fare. Ora, attenzione, quindi diciamo che ci può essere questo momento un pochino bellicoso, quindi ci sono i pesci che nelle relazioni potrebbero dire: oh, io voglio sta cosa qua. Attenzione, perché parlo di relazioni, di qualsiasi tipo di relazione, quindi attenzione, perché abbiamo un pesce che potrebbe essere un po' litigioso, e soprattutto c'è anche questo Mercurio che si mette in aspetto disarmonico, ok? Quindi diciamo che non è l'estate il momento più gioioso, però è pure vero che quando i pianeti sono in settima e quindi in opposizione, io mi scontro con le altre persone, però questo scontrarsi con le altre persone permette anche di chiarire alcune problematiche, quindi non è che l'opposizione, il litigio sia sempre un problema, perché a volte se uno non litiga è perché non gliene frega niente dell'altra persona. Quindi ogni tanto, se ci sono delle problematiche, questo è il momento giusto per affrontarle. L'importante è sapere che comunque ci avete il nervo scoperto e che vi rode un pochetto più del normale. Quindi per chi ha a che fare con i pesci dovete sapere che in questo momento potrebbero essere un po' irosi, ma proprio perché gli manca l'energia, e non è questo il momento più bello in assoluto. Tra il lavoro e lo scontrarsi, diciamo che non è l'estate quella più meravigliosa. Poi i pianeti girano e quindi si sposteranno, considerando che è un anno altamente importante per questo segno, e quindi le cose andranno meglio quando i pianeti, cioè diciamo che luglio è stato molto bello, ok? I pianeti erano in Cancro e sono successe un sacco di cose fighe. Ora i pianeti hanno girato, vi stanno a dare un po' due di picche, ma poi ricambieranno, quindi non vi preoccupate, dovete semplicemente rilassare, scegliere un'estate un pochetto più rilassante. Attenzione ai viaggi, perché in questo caso Mercurio mi mette un po' i bastoni fra le ruote, quindi attenzione al controllo delle valigie che non hanno spostano diciamo quello che è l'aeroporto, magari dovete partire in un modo e vi cancellano il volo, possono succedere queste cose. Attenzione semplicemente perché non tutto scorrerà come volete voi, però diciamo che siete quelli che durante quest'anno state piazzati bene, è solo l'estate che vi romperà un pochino le scatole. Quindi dopo i pesci facciamo l'acquario, prima che poi faremo lo scorpione, che qui abbiamo una tavolata di scorpione e poi gemelli, lei tutta karma, gemelli. Capricorno lo faremo, dai dietro le spalle. Cioè sta a giocare a palla, però è carino, è interessante, però dobbiamo fare l'acquario. Non lo faccio, verde. Mi chiamo Mork, su nuovo vengo da Ork. Questo in realtà è l'acquario, è quel segno che viene da un altro mondo. Allora tu parli con l'acquario e l'acquario sta sempre collegato a un'altra parte, tu gli dai pure le specifiche, ma loro tanto stanno a pensare a un'altra cosa e non riescono a essere sempre connessi, perché sono proprio connessi con un ordine superiore, sono gli alieni dello zodiaco, proprio perché governati da Urano. Allora diciamo che l'acquario è quel segno legato molto agli ideali politici e sociali, è quel segno che è freddo, ma è freddo inteso come non mettiamo sempre in mezzo sta vita privata. Quando stiamo nel collettivo, stiamo, no, staccamosi da sto mondo personale, se no non andiamo da nessuna parte. Ora, diciamo che l'acquario si è vissuto un momento molto importante perché ha avuto la congiunzione di Saturno, ha avviato delle cose, quando tu avvii le cose all'inizio sono sempre impegnative e portano pochi soldi. Questo Saturno si è tolto, sta in pesce, quindi porta i soldi, ok? Prima di tutto avete faticato tanto, quindi adesso i risultati di quello che avete fatto, avete macinato per 3 anni lì, no? Vi siete fatti il mazzo e la situazione è diventata comunque promettente. Però diciamo che per l'acquario in questo momento c'è la Venere in opposizione, quindi per quanto riguarda le relazioni ci può essere l'acquario che decide quanto mi piace sta persona, voglio stare con sta persona, oppure ci sono degli acquario che magari sono arrivati alla frutta di una relazione e che quindi decidono magari di lasciare andare una relazione perché non serve più, ok? Ora, fino adesso c'è stato questo Mercurio negativo, quindi nelle ultime 2 settimane per l'acquario è stato un po' difficile relazionarsi con le altre persone, ci sono state delle difficoltà a livello di comunicazione. Loro, pure l'acquario è un segno fisso, pure l'acquario è quel segno che la pensa in un modo e noi la fai cambiare l'idea, semmai la fanno cambiare a voi. Allora diciamo che è il caso di aprire la mente. Fortunatamente diciamo questo Mercurio si è messo in una posizione in cui litigo con tutti, mi scontro, però adesso i pianeti stanno in ottava casa. Quando i pianeti stanno in ottava casa, allora se Mercurio è in ottava casa parla di soldi o in entrata o in uscita, se non avete pagato le multe ve potrebbero diciamo arrivare quelle cose, oh bello non hai pagato la Tari, ma come famo a pagare la Tari, mi domando io perché la pagamo, o comunque diciamo, no, questo lo dobbiamo dire, mandano le cartelle, avete capito? E mandano e non ti raccolgo una monnesa, no vabbè. Allora, e questa è una cosa da acquario, idealmente non andrebbe pagato, ci dovremmo mettere tutti d'accordo. Comunque, tralasciando questi ideali politici e sociali che sono molto importanti, potrebbero esserci anche dei soldi che rientrano, quindi o soldi che entrano o soldi che escono, proprio perché parliamo dell'ottava casa e quindi le cose sono legate tutte a queste dinamiche. Diciamo che per chi nasce i primi giorni, diciamo, dell'acquario è un momento altamente importante. Dovete considerare che l'acquario nei prossimi 14 anni si troverà prima o poi Plutone in congiunzione, quindi con Saturno abbiamo cominciato un nuovo ciclo e l'acquario si troverà poi a entrare nel potere personale. Attenzione, perché poi dovete diventare voi il potere, l'acquario ci va sempre contro a suo potere, no? Diciamo che è il segno ribelle, però sto ribellarsi in realtà nasconde dietro la paura, diciamo, di sentirsi prigioniero, ok? E quindi invece smettere di fare ribelle anticonformista e quindi di stare a combattere il re, ma entrare nel proprio potere personale, perché se non riconoscete il potere ci andate contro nel momento in cui vi troverete con il transito più importante che c'è nella vita, e non tutti i segni si vivranno Plutone in congiunzione. Plutone in congiunzione se l'è vissuto il Capricorno negli ultimi 10 anni, no? Però la Vergine, per esempio, un Plutone in congiunzione se lo vivremo nella mia età, quando morirò, ok? Intorno agli 84 anni, io so che avrò Plutone in congiunzione, è il giorno della mia morte, ok? Per chi è giovane, no, ok? E faccio l'esempio di Plutone in congiunzione al Sole. La Meloni, il giorno in cui è diventata presidente, aveva Plutone in congiunzione al Sole. Quindi ora non vi dico che diventate i presidenti, no? Però è facile che invece diventerete padroni della vostra situazione. Quindi attenzione a riconoscere il potere non come una cosa brutta a cui andare contro, ma se usato bene il potere personale è quello che vi fa decidere della vostra vita. Quindi siete davanti veramente a degli anni di grande trasformazione. Questa è un'estate che vi mette un po' in conflitto con le altre persone, ma proprio perché dovete cercare di valutare quali sono le persone adatte a voi o capire proprio come vi siete rapportati con queste relazioni per andare verso delle relazioni un pochino più autentiche. Quindi fare un'osservazione di tutte le problematiche che avete avuto negli ultimi tempi nelle relazioni e per, diciamo, attirarvi altri tipi di persone, andare a osservare il vostro modo di relazionarvi in modo che attirerete persone diverse. Quindi, diciamo, è un momento importante in cui vivete un po' più in ostilità, ma questo vi serve proprio per poi andare verso quelle che sono delle cose che fanno più parte di voi. Quindi, insomma, è un momento di grande liberazione, ma dipende sempre da voi. Quindi dopo l'acquario Gemelli e Capricorno, che lei tutta Gemelli, abbiamo detto Scorpione, siete così tanti. Ma che Capricorno che mi tiri le cose da dietro? Gemelli. Gemelli. Ma io, questi stanno tipo alla terza boccia. Allora, aspetta che ero curiosa di capire, ma ormai non ci vedo più. Dopo una certa età si abbassa la vista. Si abbassa la vista perché dobbiamo vedere con altri occhi. Dopo una certa età bassa, l'apparenza inganna. Gemelli! Allora, Gemelli! Allora, amica tua ha detto Gemelli, guarda lei, tutta carina. Pocahontas. Un applauso a Gemelli! Un applauso a Gemelli. Gemelli, sempre in due, so. Non si può applaudire da quello silenzioso, quello si applaude così, però ogni tanto fa pure un po' di caciara, non è fatto male. Allora, Gemelli è il segno governato da Mercurio, è quel segno doppio dove effettivamente abbiamo proprio due personalità, quella silenziosa e quella che chiacchiera sempre, quella che sorride e quella che proprio no, sono muta, non voglio parlare con nessuno. Allora, diciamo che questo segno nasce per imparare la comunicazione a 360 gradi, quindi non è parlo o sto zitta, ma ascolto. Questa è la cosa più importante, no? Allora dovremmo cominciare a pensare al fatto che abbiamo due orecchie e una bocca, ok? che forse dovremmo imparare ad ascoltare di più tutti, non soltanto i gemelli. Io comunque Luna e Marte in gemelli, quindi insomma questa problematica la conosco benissimo. Quindi il giorno del cabaret parlo, il giorno dopo non riesco proprio a parlare, no? C'ho queste fasi qua. Allora, è un segno che comunque ha bisogno di tantissima leggerezza proprio per nascondere il suo lato triste. Però gemelli, ogni tanto la tristezza fa parte anche della nostra vita, quindi non la devi nascondere a te stessa, perché sennò è come se non guardassi mai quella parte della vita. Quindi ogni tanto si può essere tristi, la tristezza ci serve anche come la gioia, quindi cercare di viversi un pochino tutte e due le parti. Allora, cosa sta succedendo? Allora, cominciamo dalle notizie belle, dal fatto che comunque i pianeti in Leone sono molto stimolanti, diciamo che c'è la possibilità tramite l'amicizia di incontrare, avere delle relazioni soprattutto amichevoli, quindi tra un'amicizia e una cosa ci possono essere dei flirt molto interessanti, che chissà poi come diventano. Ora il discorso, appunto, Sole e Venere stanno belli posizionati, il discorso è che c'è Mercurio, che è il tuo pianeta guida, che si è messo in quadratura dalla Vergine. Quindi la quadratura è, innanzitutto ci possa avere delle problematiche nella casa, ok? Quindi c'è pure un bisogno di stare un pochetto più in silenzio e riflettere su quello che è accaduto, ok? C'è anche un Marte che crea delle problematiche sempre legate alla casa. Allora, diciamo che gemelli, questo è il momento in cui ascoltare gli altri proprio per riuscire a capire meglio che cosa viene dall'esterno, in modo di poter riflettere e poi riaprirsi verso le altre persone, ok? Ora diciamo che sono quei pianeti che spingono tanto a socializzare, ma gli altri comunque a vedere le dinamiche che si svolgono dentro casa. Quindi se si convive con qualcuno, ecco, ci possono essere delle problematiche, ok? Delle rotture in casa, che può essere coinquilino, come può essere qualche tubo che si rompe. Attenzione, diciamo che forse non vi conviene troppo stare a casa, proprio perché è lì che avrete la tendenza a litigare. Quindi uscire e andare nell'amicizia e stare bene a casa, che è una cosa che vi piace, perché i gemelli a stare dentro casa non gliela fanno. Per esempio i gemelli non è che li potete invitare a casa, dai vieni a casa, mangiamo in due e gli attacchi il pippone sulla vita tua, perché i gemelli si rompono le scatole. Due ore potete stare i gemelli seduti al tavolo, no? Se no li incassate quattro ore, la prossima volta non ci verranno mai, perché i gemelli hanno bisogno di uscire e di socializzare, non ne sta lì giù a parlare in due, capito? È un po' frustrante. Allora, diciamo che questi pianeti vi rompono un pochino le scatole, e c'è questo Saturno che sta mettendo l'accento sul mondo lavorativo, quindi dovete capire in che direzione andare, ok? Proprio perché nell'ambito del lavoro la direzione che avete preso è quella giusta, oppure è il caso di cambiare. Questo ve lo metterà davanti i pianeti e vedrete che adesso, diciamo, vi troverete un pochino in conflitto con queste situazioni e col fatto che finalmente magari riuscite a dire ogni tanto qualche no. È importante, perché i gemelli comunque tendono sempre a dire di sì, perché tra una cosa e un'altra facciamo, però adesso invece, visto che Marte è negativo, siete un po' nervosi eccetera, dire di no è la cosa migliore che potete fare, così scegliete quello che è meglio per voi. Rilassarsi un pochetto, pure i gemelli non possono andare a scalare le montagne quest'estate, non è il momento giusto, lo farete poi, vi divertirete, diciamo, dal prossimo mese, ma in questo momento Marte vi sta castigando un pochino insieme a sto Mercurio, che vi invita ad ascoltare proprio per capire quello che vanno gli altri, perché se parlate lo fate nel modo sbagliato e quindi vi conviene sta a capire quello che vi stanno a dire gli altri. Questa è la dinamica più importante. Che segno facciamo? Lo scorpione! Facciamo lo scorpione! Facciamo lo scorpione e poi facciamo i sagittari, ma voi siete tutte, facciamo lo scorpione! Tutte e due siete sagittario, no? Lei sagittario, tu? E lei? Non hai visto niente. Che si cos'è? Acquario, però già abbiamo già fatto l'acquario. Allora facciamo scorpione e poi facciamo il sagittario. Grazie. Bisogna farlo sto scorpione. Sì. Se no non usciamo, eh. Ma poi che manca? Il capricorno? Siamo la quinta bottiglia di prosecco. Esatto, esatto. Almeno ne ho viste tre, invece ne sono cinque. Allora, ma poi che manca? Il capricorno? Sagittario? Basta. Oh, meno male, non finiscono mai questi segni. Poi uno dice, ma c'è il tredicesimo segno? No, guarda, non la farei mai, capito? Che segno sei di laggiù? Tutto? Pesci. Beh. Scorpione! Allora, scorpione è il segno governato da Marte. Non è vero, principalmente sono governati prima da Plutone. Sono pioneta dalla trasformazione del potere personale e poi da Marte. Se in Ariete vediamo l'inizio della vita, nello scorpione in realtà vediamo la fine intesa però come semina. Ok, perché nello scorpione che è governato da Plutone e sono governati come parte del corpo, c'hanno gli organi genitali. Lei mi ha detto, ma che segno sono? Ah, poi facevano tutte le fighe, ah, tu adesso ci guardi e ci dici che segno sei, no? E io ho detto, guarda, mica sono indovina. Però poi l'ho guardata e io ho detto scorpione, era scorpione, tutta formosa, tutta... Se riconosce lo scorpione, so buone, capito? Vabbè, so buone, è così. Allora, quando... Poi, esatto, io cioè, quando ti senti... No, attratto da sto segno, sai che è dello scorpione. Poi c'è chi gli piace e chi non gli piace, eh? Ah, te devo dire. Allora, a me quello che mi piace dello scorpione è che in realtà sono segni riservati. Un po' dipende dal segno, dall'ascendente. Però lo scorpione, esatto, c'ha questa caratteristica, diciamo, del che in questa vita devono imparare a lasciare andare. Un compito importante, perché lo scorpione, allora ci sono dei segni che nascono fortunati e dei segni che nascono meno fortunati. Quindi il toro, il leone, pure il sagittario, sono segni abbastanza che hanno scelto una vita molto, molto interessante. Lo scorpione invece sceglie di affrontare delle prove abbastanza grandi in questa vita, che è proprio quello, più si attaccano alle persone più le persone se ne vanno. Poi ci stanno gli scorpioni che dicono, no vabbè, allora siccome ho già presa la sola non me lega a nessuno, fanno i distaccati, allora poi si trovano i stalker sotto casa. Diciamo che imparare a gestire questo grande magnetismo è la cosa più importante per questo segno. Ho detto un segno riservato, non gli fai imboccare dentro la stanza perché se no si arrabbiano, non bisogna mai oltrepassare i loro confini, perché se no poi gli esce quel lato vendicativo che esce solo esclusivamente quando tu hai oltrepassato quella soglia, perché se no sono persone gentili, disponibili e che soprattutto si fanno affari loro, ok? Perché, ecco, quindi è importante sapere che loro non vogliono essere invasi e non invadono nemmeno le altre persone, cosa che magari invece fanno altri segni. Allora, cosa sta succedendo allo scorpione? Lo scorpione c'ha la Venere in quadratura, quindi in questo momento diciamo questa Venere non permette allo scorpione di trovare quelle le giuste relazioni che vanno bene. Non è il momento per l'amore del secolo, ma che ve frega d'amore del secolo. Allora bisogna rivalutare alcune situazioni di relazioni. Se non volete più certe dinamiche, potete andare a vedere quello come vi relazionate in modo da attrarre poi quello che volete. Bisogna però capire quello che volete, che è la parte più difficile, ok? Soprattutto perché molto si muove nel mondo della passione. Lo scorpione è più facile che se vive questi amori travolgenti piuttosto che queste. Ah, che bello, ci mettiamo insieme, stiamo bene, andiamo a convivere, viviamo felici e contenti. Esatto, non, se tu fai una relazione tranquilla non te lo metto con lo scorpione, ok? Cioè, nel senso che serve un po' di pathos. Allora, questa Venere un pochetto romperà le scatole, ma questo vi serve per riuscire a capire meglio come relazionarvi alle altre persone. Le notizie buone è che questo Mercurio si è tolto dalla quadratura, pure gli scorpioni in questo momento hanno trovato un sacco di problemi a livello lavorativo o comunque di scontro con delle persone. Ci sono stati diciamo, dei rapporti che sono stati un po' conflittuali. Magari vi piacciono a voi i rapporti conflittuali, però questo Mercurio finalmente si mette in buona posizione, quindi ci sono delle dinamiche che sono molto interessanti e che si muove molto qualcosa a livello lavorativo soprattutto. Attenzione, perché qualsiasi cosa verrà vista da tutte le altre persone. Diciamo che è un momento interessante perché sì, ci sono dei scontri soprattutto anche a livello di visione con le altre persone, però sia Marte che Mercurio vi danno una grande carica energetica, quindi la situazione comincia a essere più promettente e quindi meno scontrosa di come è stata questa parte di luglio. Agosto scorre un pochino più favorevole e sarete meno litigiosi o comunque diciamo meno accorati, meno accorati. Ok, ci avrei qualcosa della bilancia? No, vabbè. Toro, ma io Toro. Ah, ok, Toro. Quindi, esatto, come sa? Io ti dico basta. Esatto. Ma allora, per fortuna, diciamo che vi metterà. Ok, allora tu Scorpione ascendente Toro è diverso, tu Scorpione Scorpione è proprio tutto per te e la situazione va a livello lavorativo, quindi attenzione perché lo scontro con le persone può essere a livello di visione della vita, però insomma la situazione diventa più promettente, attenzione a non fare i passi più lunghi della gamba, però diciamo che questo Saturno vi sta portando verso la stabilità, quindi è un anno comunque interessante, anche se l'estate, soprattutto diciamo fino a ieri, la situazione era molto più scontrosa, adesso sarà migliore, grande energia fisica e questo è molto importante. E poi abbiamo Sagittario e poi abbiamo il Capricorno. Rimango sempre con questi ultimi due segni, pure l'altra volta. E poi facciamo Sagittario e Capricorno. Dipende da voi, mica dipende da me. Allora, Sagittario, segno di fuoco, segno governato da Giove, un segno doppio. Sagittario non conosce i confini, anzi, Sagittario i supera i confini. Perché? Perché il Sagittario, innanzitutto i bambini Sagittario nascono nelle famiglie per riportarvi l'ottimismo, ok? Perché voi avete smesso di sognare, allora ve nasce la via Sagittario che vi riporta un po' di fiducia e di ottimismo nella vita. Contro il Sagittario i problemi non esistono per il Sagittario. Ora, devo dire che purtroppo i pianeti in questo frangente stanno rompendo un po' le scatole al Sagittario, quindi bambina non vi preoccupate se ogni tanto trovate un pochetto di ostilità con le altre persone, ok? Quindi è un anno in cui vi mette un po' in conflitto su alcune cose e soprattutto, allora diciamo che a livello di relazioni e di persone c'è tanta possibilità di conoscere persone interessanti, ok? Tante amicizie, relazioni anche belle, però c'è questo Mercurio che vi dice che da oggi in poi, fino a ieri tutto bene, mo la scuola è finita, meno male, perché se era prima poteva essere un problema. A settembre sarà un po' un problema riprendere la scuola, questo ve lo dico, noi andrà perché ci sarà questo Mercurio contrario. Allora Sagittario, l'universo vi sta dicendo che i problemi in realtà esistono, ve li porterà, ma i problemi possono essere tranquillamente superati, perché una volta che uno supera i problemi poi si sente meglio, ok? Quindi innanzitutto i pianeti vi dicono attenzione a come parlate, se parlate troppo, ok? Perché diciamo che ascoltare ogni tanto anche per voi va bene, non vi troverete, cioè magari voi volete andare in vacanza a un posto ma non ci potete andare, ci sono delle cose che vi rompono le scatole, soprattutto Sagittario, qual è il problema? È che non ci sono queste grandi energie, però Sagittario non lo capisce che non ci stanno queste grandi energie, quindi loro vorranno andare a scalare montagne, vorrebbero fare grandi cose, in realtà non hanno tutte queste energie, quindi il Sagittario sarà un po' nervoso, ok? Ora abbiamo già visto il Sagittario un po' tutto l'anno è stato scontroso con le persone, proprio perché doveva imparare le dinamiche con le altre persone. Quindi attenzione, perché l'estate sì, diciamo, vi spinge a stare con le altre persone, però le energie sono basse, quindi non esagerare semplicemente. Insomma, a Nassa arrampicà sull'albero e sul palo ci vale un pochino d'attenzione, semplicemente questo. Voi magari non le riuscite a sentire queste cose, però sarà un'estate strapiena di persone e quindi dovrete pure capire che certe persone vanno bene e che con certe persone invece si litiga, quindi attenzione semplicemente. Diciamo non è l'estate più favolosa di tutte, ma in realtà avete tanti punti a favore. Dopo il Sagittario, che mi sta a sparire la voce, in realtà c'ho pure la febbre, raga, questo ve lo dico. Faccio anche la febbre. Brava! Non sei Scorpione d'oro. Capricorno. Capricorno, ultimo segno per oggi. Allora, Capricorno, allora, se il Sagittario è il segno dell'ottimismo governato da Giove, il Capricorno invece è il segno del pessimismo perché è governato da Saturno. Allora, ci tengo a specificare che per esempio il Sagittario nasce abbastanza fortunato, riporta a sottimismo. Capricorno a volte è proprio il fioriparatore, questo lo devo dire. È vero. Oppure nascono per caso, per sbaglio. Di Capricorno. Perché? Allora, Capricorno è il segno di Gesù Cristo. Se nasce al solstizio, no, d'inverno, quando nasce Gesù? 24, quando nasce Gesù. E infatti il Capricorno praticamente si porta la croce. Allora, si porta la croce all'inizio della vita. Nella seconda parte della vita il Capricorno invece è quello che ringiovanisce, loro nascono con le rughe, con tutta una serie di difficoltà e gli vengono accollate cose che non fanno parte della vostra vita. Allora, era lo scopo della vostra vita, voi praticamente nascete con queste croci che non sono le vostre e non vi dovete basare su quello che vi ha detto la famiglia. Ok, voi vi dovete distaccare, andare verso la vostra propria realizzazione, concretizzare i vostri sogni. No, però principalmente il Capricorno, che veramente chi nasce il Capricorno gli accollano le cose, tu nasci sono bambini responsabilizzati. Allora, praticamente nascono con sto corpo da capra, no? E sotto c'hanno le gambe da pesce, perché loro devono scalare la montagna senza avere la possibilità di usare le gambe. Se gambe sono le radici delle famiglie che le dovete accannare e dovete puntare sulle vostre braccia. Scalare la montagna, siete i segni, il segno che costruisce per eccellenza, il segno che ha maggiore successo nella vita, mi dispiace dirvelo, è il Capricorno. Ritorniamo a sta cavolo di Giorgia, ma anche un Adriano Celentano, per farvi capire, no? Che artista! Sì, Giorgia purtroppo è del Capricorno. Sì. È del Capricorno, però visto che è riuscita a diventare la prima presidente, capito che te voglio dire? Ma perché il Capricorno è un segno che realizza, non sono minimamente fan, però me la devo portare come cosa, perché il Capricorno è quello che costruisce le cose grandi, piano piano, passo dopo passo, costruiscono l'impero, quindi bisogna dargli retta al Capricorno perché riesce a realizzare le cose. Allora, Capricorno si è vissuto 10 anni con questo Plutone che ha attraversato, quindi si sono vissuti la congiunzione di questo pianeta così importante. Avete realizzato delle cose incredibili negli ultimi 5-6 anni soprattutto, avete cominciato a fare delle cose che hanno portato dei grandissimi risultati, c'è stata fatica, adesso c'è un grandissimo successo e riconoscimento. Allora, questa Venere in questo momento è molto più legata ai soldi o alla sessualità, piuttosto a che bello faccio all'amore. Ma perché? Perché in questo momento nemmeno vi interessa troppo questo. Capricorno è uno di quei segni che solitamente si fidanza e ci sta tutta la vita con una persona, perché gli piacciono le cose durature, è uno di quei segni che vogliono fare sul serio. Ovviamente parlo di segno in generale, perché ci stanno pure dei Capricorno che magari hanno la Venere in acquario e che quindi non hanno nessuna intenzione magari di avere una storia duratura, però gli piace costruire delle cose e queste cose le ha costruite. Ora la cosa bella è che c'è un Marte che dà grandissima energia, perché sta in Vergine, c'è il trigono insieme a Mercurio, quindi innanzitutto dopo che avete lavorato potete pure cominciare a viaggiare, questo è il momento di viaggiare, di cambiare vocazione, soprattutto a un momento molto proficuo dove ci sono delle grandissime energie. Quindi amore a parte, diciamo che state belli piazzati con un Giove in Toro che vi dice avete fatto il mazzo, avete raggiunto i risultati, ecco state pensando pure di fare i grandi acquisti, casa, una cosa più grande, un divano più grande, perché il Capricorno gli piacciono le cose grosse, soprattutto lavora per procurarsi la comodità, divano a L, divano a tre ante, ok? Anzi doppia L, a U, divano a U lo progetta il Capricorno, secondo me Alexa l'ha progettato un Capricorno, perché a Capricorno gli piace dagli ordini, no? Perché sono dei capi, questo è il discorso, quindi vivono circondati da telecomandi, ma questa roba non è che loro se la guadagnano lavorando giorno dopo giorno. È un'estate importante, è il momento di godersi la vita. E sembra che abbiamo finito i segni, giusto? No! Ma io ho finito la voce. E quindi avete delle domande? Se avete delle domande le potete fare, fate tutte le storie. Io allora, bello prima tutto. Hai detto Bilancia e Ariete, no? Sono adesso... Sono opposti. Ok. Ripeti un po', cioè scusami. Che devo ripetere? La cosa tra l'Ariete e la Bilancia? No, di no. Ah, del nodo nord, allora che dobbiamo diventare più assertivi e non prevaricatori, ok? Quindi andare verso... Ma questo è il mio essere assertivo. Esatto. Ok, però è proprio che dobbiamo puntare un po' su quella che è la nostra volontà. Allora io non so se... Io quello che dicevo è... L'altro giorno sono... Ieri. Sono tornata da fuori, poi ogni volta che torno a Roma mi prende sempre un po' un colpo. Prendo la metro A, e c'era un ragazzo, esatto, a parte che già devi prendere la metro, cioè torni da fuori vedi quanto può essere zozza Roma, no? Prendo sta metro e a un certo punto c'era un ragazzo con la trap a volume alto sulla metro, tutti zitti, no? Io sono appena entrata, figurate, mi era venuta proprio, sai, quando a 10 minuti da Roma, no, 10 km da Roma, anche 20-30, già mi comincia a salire a rapido. E questo che si sentiva la trap tranquillamente a palla sulla metro, tutti zitti. E io gli ho detto, cioè proprio così, poi io sono scendendo a Riete, non gliela faccio a sta mezz'ora. Io ho detto, tesò, sta musica è terribile, io ho detto. Io ho detto, sta musica non si può sentire. Sentitela te. Oh, nessuno ha detto niente, qualcuno era condiscendente. Ma fino a mo nessuno gli ha detto niente. Quel ragazzo ha fatto il vago, non ha detto niente, manco mi ha guardato. Poi ha preso e se n'è andato. Però io mi sono meravigliata che nessuno sulla metro gli è riuscito a dire che non si può sentire la musica a palla sulla metro, perché sulla metro ci stiamo tutti, la musica te metti le cuffiette e fai come te pare. E dai! Cominciamo a dire le cose, non fa, cioè, dai, non possiamo essere sempre accondiscendenti, soprattutto con la trap. E dai! Però gli artisti di strada però no! Gli artisti no, no, però la trap no, la senti te! E io questo gli ho detto. Non è riuscito a dirmi niente, non mi ha insultato, nemmeno mi ha guardato, però se n'è andato. Questi sono i nodi lunari. È vero. E quindi dai, ragazzi, diventiamo, facciamoci valere nel modo giusto. Non l'ho offeso. Se n'è andato. Gli altri erano contenti. Vuoi sapere della Lilith? Allora, la Lilith è quel femminile, diciamo, ribelle, dove c'è stato un rifiuto, e in questo momento si trova nel segno del leone. E come dicevo, si va un po' a ricalcare quella Venere che ci chiede di essere trattati bene, no? Però quella sottile linea tra il siccome non mi sento niente, devo far vedere che valgo e quindi vado a conquistare quelle persone per far vedere che qualcuno mi si fila, quindi entro nell'ego, piuttosto che invece concentrarmi su me stesso e attirare le persone giuste. Questa Lilith tirerà fuori il nostro lato ombra come quello delle altre persone, ma servirà esclusivamente per farci vedere le dinamiche all'interno delle nostre relazioni, perché se noi andiamo a vedere all'indietro e ci rendiamo conto che abbiamo attirato un po' sempre le stesse dinamiche, sempre un po' le stesse persone, e quindi questa Lilith ci aiuterà a fare luce su sta roba e cercare di capire se noi le cose le facciamo per ego o se le facciamo proprio perché vogliamo essere trattati bene. Quindi attenzione, perché c'è la sottile linea che divide le cose, e quindi diciamo che sarà molto più chiara quando la Venere si congiungerà. Cioè, praticamente questa Venere tocca due volte Lilith e quindi ci farà uscire questo lato ombra, o ci attirerà tutto quello che non ci piace per viverci in un determinato modo. Quando finisce il percorso, la terza volta questa Venere e Lilith saranno in Vergine, e diciamo la Vergine cerca la purezza nelle relazioni, quindi ci sarà un lavoro molto grande da fare sulle relazioni. Io vorrei sapere cosa vedi prima riguardo la Venere in acquario con il segno del Capricorno. La Venere, nel senso che allora praticamente se uno nasce col sole in un segno, la Venere sta sempre vicino al sole. Ok, quindi chi nasce del Capricorno può avere la Venere in Capricorno, la Venere in Acquario, la Venere in Pesci, o la Venere in Sagittario, o la Venere in Scorpione. Non può essere più lontano di due segni. Quindi se un Capricorno, magari c'ho il Sole in Capricorno, io voglio costruire qualche cosa nella vita, però c'ho la Venere in Acquario e la Venere in Acquario mi chiede di vivermi le relazioni in libertà, o comunque diciamo bisogna avere lo stesso ideale della vita, oppure una relazione che mi permette di poter anche stare in relazione con altre persone. Solitamente la Venere in Acquario non è una Venere che si lega, non è la Venere che si sposa, è la Venere libertina, questo è il discorso. Quindi è la Venere, cioè chi ha il Sole in Vergine non ci può avere la Venere in Acquario, nemmeno il Sagittario, meno male, meno male. Quindi diciamo ci sono delle cose che sono molto... Allora, nell'astrologia non c'è niente di indovino. Ciao, grazie mille. C'è molta matematica, c'è molta tecnica, e ovviamente però dovete pensare che quando voi ci incontrate, innanzitutto non siamo indovini, e quando ci chiedete una cosa noi dobbiamo aprire, per ogni domanda che mi fate io apro almeno 12-20 cartelle per potervi dare una risposta certa. Quindi attenzione, perché magari quando mi incontrate, se no mi devo preparare risposte pronte. Però è più facile mandarvi a quel paese. Sei bravissima! Grazie. Grazie a lei che canalizza, è sta là che riceve tutte le informazioni. In realtà ci sono tante ore di studio per ogni cosa, ma è così proprio perché comunque nell'astrologia c'è scritta tutta la nostra vita e tutto quello che può succedere. Ci serve per indicare, non esiste una previsione del futuro e nemmeno deve esistere, perché la vita è un mistero e la bellezza della vita è proprio il mistero. Le indicazioni ci servono. Basta, soccorso.